piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Io dico un po' sono matto, però rispondo con rabbia. Io non sono matto, perché io sono qui dentro, non sono per specifiche di testa oppure di cose. Io sono qui dentro perché mio padre mi ha dichiarato pazzo. Effettivamente sono una persona matta, ma matta nel vero senso della parola. Io non sono matto. Io simulo di essere sano, ma non sono mica tanto a posto. Voci di matti. Voi direte che è un mio rovello personale, dovrei farmi curare o far curare le persone attorno a me, piuttosto che continuare a parlare di cervelli diversi. Invece è un po' una chiave che oggi voglio sottoporre al mio pubblico, quella di guardare un po' attorno a sé. Siamo circondati da persone che logicamente fa parte del discorrere comune e quotidiano parlare anche delle proprie malattie. Figuriamoci, sono preceduto da anni di un programma che parla di malattie, quindi il solluchero di molte conversazioni è quello: mi fa male questo, mi fa male quell'altro, ho la gastrite, ho questo problema, tu cosa fai per il mal di testa, tu cosa fai per le emorroidi, e via dicendo. Mi rendo conto che è un argomento di facile conversazione, anzi le persone sentono corroborate, affratellate nel parlare di malattie proprie o di altri. Poi figuriamoci, sono le narrazioni delle disgrazie funeste in famiglia, ci sono persone che solo quando mi si avvicinano già vedo dallo sguardo non raccontarmi di qualche disgrazia. Io ammetto, capisco, comprendo, ho grande e profonda e appassionata partecipazione per il dolore altrui, però la narrazione quotidiana dei propri malesseri e dei malesseri altrui e la collazione continua, quale sia l'ordine gerarchico fra i malesseri propri e i malesseri altrui, devo dire, non mi appassiona fortemente. Ma mi rendo conto però, e qui vado al punto, che di tutti questi malesseri, di cui si parla delle volte anche con grande volontà, delle volte anche un argomento per evitare l'invidia altrui, per evitare che gli altri ci aggrediscano, per evitare che gli altri ci sovrappongano, ci sovrastino con i loro problemi, metti subito avanti, guarda, sto malissimo, c'ho un male veramente brutto, guarda, non riesco, ho mal di testa. Ecco, il mal di testa, che è sempre stata la canonica scusa per allontanarsi dall'ingombro e l'onere dei doveri coniugali e per un'infinità di generazioni di moglie sottoposte senza passione al desiderio del marito, diventa uno degli argomenti per allontanare le persone moleste. Ma in tutto questo esiste una lacuna. Del disagio psichico non si parla mai. Non si parla mai perché è qualcosa che contamina la linea di sangue. Del disagio psichico si parla per dire: non dormo, sono insonne, mi sento agitata, mi sento depressa, mi sento male. Ma non si dà mai il nome di un reale stato patologico a tutto questo, ma si dice piuttosto come una circostanza morale sempre causata e determinata magari da comportamenti altrui. Quell'uomo mi fa stare tanto male, quella donna mi angoscia, mia moglie mi distrugge la vita, il mio capo ufficio mi ha fatto venire l'esaurimento nervoso, oppure si appioppano addosso agli altri diagnosi che spesso non corrispondono a un reale effettivo stato patologico. Quel mio collega è bipolare, semplicemente perché ogni tanto gli girano le palle, qualche volta anche allegro. Quel mio collega è bipolare, ciclotimico, una parola che va molto di moda a dire che una persona sia ciclotimica. Tutti abbiamo imparato il termine tecnico per dire uno dal carattere lievemente umbratile. Ultimamente non si dice più esaurito, ma si dice autistico. Su questo ho fatto grandi battaglie, perché mi colpisce nella mia carne e nel mio cuore usare quello che è uno stato d'essere, che è proprio di tante persone, come se fosse uno stato patologico e curabile. Non è curabile. Una persona che è nello spettro autistico non si cura, ma però va accettato, perché ha il cervello diverso. Ecco, in tutto questo, oggi vorrei chiedere in maniera spassionata al mio pubblico: di fronte al vostro disagio psichico, come reagite? Vi accontentate di dare le colpe agli altri, alla vostra famiglia, ritirate fuori i retaggi vetero-freudiani dicendo avete sofferto, vi è mancata l'affetto materno, vi sono mancate le carezze del papà, vi è mancato il calore, l'empatia, avete genitori non empatici, date colpa a tutti i vostri amori sfortunati, passati, devastanti. Ma insomma, quando state veramente male di testa, vi sentite la vita insopportabile, non riuscite a compiere in maniera serena gli atti quotidiani, o vi rendete conto, a forza di sentirvelo dire, che c'è un solco di comportamenti vostri o altrui, beh, in questo caso come vi comportate? Andate dal medico specifico che si occupa della testa, avete paura? Io lo dico perché molto spesso vedo persone che conosco, si imbottiscono ogni sera di ansiolitici e psicofarmaci, se no altrimenti non riescono a reggere l'ansia. Dico, ma perché non ti fai vedere un attimo da uno psichiatra? Mica per niente, o da un neurologo, che magari ti dice quale può essere il problema, ti aiuta. No, no, no, si passano fra amiche, soprattutto fra amiche, ma anche fra amici, la pasticchina di Xana, di Tavro, adesso queste cose che oggi ci si passano come le mentite, ma non si va alla radice del problema, non si capisce che il disagio molte volte è legato da uno stato che va affrontato in maniera clinica. 800 24 0024, vi fa tanta paura parlare di disagio psichico? Avete paura di andare da uno psichiatra? Pensate che sia il medico dei matti, o da un neurologo? Pensate che è qualcosa a tenere lontano con il crocifisso, come se fosse il demonio da esorcizzare? Vediamo un po' cosa dite. Voglio una donna! Voglio una donna! Ma dove te la vado a prendere? Lascia una donna, figlio mio! No, no, che donna tu ci prendi? Dio Dio, guarda dove è andata a finire! A voi una donna! Oh, eccolo lassù, babbo! Chissà! Teo! Ci sono i nidi lassù! Dai, Teo! Scendi giù, no, che ti puoi far male! Cosa fai? Ti va a prendere una stalla! Ma cosa facevate? Così che state attenti? Come fate ad andare a finire su quell'albero? Babbo, vado su a prenderlo io. A te ti do un cazzotto in testa che ti faccio fare un buco in terra. Voglio una donna! Ma come ha fatto? Anche Federico Fellini, ormai chiara, questa scena è epica, passata alla storia. Nel suo Amar Cord racconta quelle che sono le zone d'ombra nella maggior parte, nella grossa parte di molte famiglie, che ha un parente che ha un notevole disagio di mente, in questo caso è Ciccio Ingrassia, e lo zio Matto. Lo zio Matto è chiuso, erano altri tempi, in un manicomio, si va a trovare ogni tanto, esce fuori con l'infermiere, con la suora, fa un pranzetto con la famiglia, è abbastanza tranquillo, però a un certo punto esprime in questa maniera il suo disagio, la sua emarginazione, la mancanza di attenzione ai suoi bisogni primari, anche affettivi. Sale su un albero e dice: voglio una donna. Perché? Perché è quello che gli manca, probabilmente. Il suo essere matto, tra virgolette, non gli impedisce di avere un desiderio sessuale, un'emotività, una voglia di relazione. Questo ancora viene molto considerato qualcosa che non appartenga alle persone con un disagio, quelle gravi, quelle che veramente hanno bisogno di un'assistenza continua. Sulla sessualità delle persone con disagio mentale potremmo qui aprire un capitolo, ma è di questo che voglio parlare. Voglio parlare di qualcosa che più assomiglia al livello di normalità, al livello di vita quotidiana delle persone che normalmente mi ascoltano e possono chiamare all'800 24 0024. Perché c'è tanta paura del disagio psichico? Perché uno si vergogna se ha palesi segni di avere o lui o nelle persone a lui vicini dei problemi a cui bisogna risolvere e ricorrere al medico specialista che di questo si occupa? Perché c'è questa sorta di pregiudizio nei confronti della mente quando si ammala? Se si ammala un piede, una gamba, una coratella, un qualsiasi altro organo, corriamo tutti dal dottore tranquillamente, anzi diventa narrazione epica individuale. Perché sulla testa abbiamo tanta paura? Qual è il pregiudizio che è ancora legato a questo? Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma non so quale sia il pregiudizio. Certamente io ho fatto parecchi anni di psicoterapia, non di analisi. Ho imparato tante cose e ho imparato che per la salute mentale bisogna dare la colpa agli altri. Così mi è stato detto, o perlomeno, diciamola così, mi è stato detto che dare la colpa agli altri è indice di salute mentale, perché solo i nevrotici danno la colpa a se stessi. Io non voglio entrare nello specifico delle persone con cui lei si è rivolta, io parlo di disagio mentale grave a cui serve un medico, uno psicoterapeuta può trovare delle maniere, delle escamotage per lavorare sul comportamento, per lavorare sull'empatia, ma se c'è un problema, il problema è a livello organico e a livello organico bisogna intervenire, secondo me. Quindi dare le colpe agli altri può essere una forma di terapia, sì, dare le colpe agli altri sì, ma non risolve il proprio problema. Caterina Cavina, buongiorno. Buongiorno. Allora, Caterina Cavina l'ho tenuta silenziosa finora, è una mia amica, lo devo dire, ma è anche una scrittrice, una saggista, una persona che avete già sentito, che ha una memoria storica di questa trasmissione, perché la chiamavo ogni tanto a parlare di quello che era il suo tema forte qualche anno fa. Ha scritto due libri, Le ciccione lo fanno meglio, Le ciccione lo fanno ancora meglio. È una di quelle ragazze dalle forme abbondanti che normalmente vengono prese in giro, denigrate, bullizzate. Oggi va molto di moda perché un paio di personaggi famosi hanno rivelato che erano in altri tempi grassi, hanno tirato fuori il ciccio bomba cannoniere, è diventato uno slogan per cui per qualche giorno si è parlato di uomini grassi e discriminati. Ma la Cavina diceva qualcosa di più, diceva: mentre pubblicamente mi indicano come una sorta di animale da circo, poi nell'intimo mi cercano perché c'è una sorta di vena di attrazione fisica anche per le donne in carne. E su questo Caterina Cavina è stata riconosciuta, chiamata, interrogata, intervistata molte volte. Era la cicciona figona che parlava del sesso con le ciccione, così lo sintetizzo, ma sono chiaro. Oh, Caterina Cavina, Terride, era questo, era di questo, diciamo. Sì, era, diciamo che era uno dei miei temi forti, le taglie forti. Per anni ti ho sempre chiamato per questo. Sei dimagrita, non sei più cicciona. No, sono sempre in forma. Adesso si dice curvy, no? Sì, curvy. Perché tutto questo racconto che tu hai fatto era di 12 anni fa ormai. Lo so. Quindi eravamo proprio avanti, prima del movimento curvy, prima delle XXL sexy. Sì, però scusa Caterina, non ci prendiamo in giro. Le cosiddette curvy, le modelle curvy, normali ragazze. Lo so. Cioè, lo curvy. Sono persone non anoressiche, le chiamano curvy, però sono quello, sono. Sì, dai. Una presa in giro. È un mondo, quello della moda, un immaginario che in realtà si autoconferma, perché invece di mettere la vera cicciona, se proprio vogliamo usare questi termini, mette una donna un po' una donna normale, da con delle normali forme, diciamo, e fa proprio capire quanto una terza è, ecco, per dire un po', una terza già diventa una carne. Sì, no, ma era il minimo sindacale nei gloriosi anni 50, ecco, diciamo così. Sì, esatto. No, ma fa capire quanto è malato quel mondo, nel senso, c'è la famosa frase nel Diavolo Veste Prada che da una 38 passa alla 40 e dice: cavolo, sono obesa. Così. Fa proprio, parlando proprio di malattia mentale, ecco, ti fa capire, ecco, tu invece, la distorsione. Diciamo, in questo percorso in cui sei scurvizzata, sì. Ma penso sì. Quello sia stato per stare le meglio ginocchia, sicuramente. Le ginocchia. Però un po' appesa sulle ginocchia. Sì. Penso che avrai lo stesso avuto conferme di desiderio maschile, anche se hai perso qualche fetta di prosciutto. Sì. No, vabbè. C'è gente ovviamente che al calare delle tette, che comunque è inesorabile perché ho 47 anni, ha un po' pianto, però la mia schiena no. Vabbè, ti stai meglio. Si può fare a meno. Però ecco, vedo che ti sei applicata comunque in un altro tema abbastanza, esatto. Fosco, perché mi hai mandato le bozze di un tuo libro che sta per uscire, quindi sì. Ne parlo perché ne sono appassionato del tema e il libro ancora non è uscito, non è che ti sto facendo promozione, Le radici dei fiori, che è un romanzo per Pendragon, dove tu tocchi un altro tema e parli anche della tua vita, sotto forma romanzata, racconti una storia, ma ci sei te dentro. Dammi l'argomento. Anche. Allora, l'argomento è... La protagonista si chiama Arianna, è magrissima, lo dico subito, è albina, sì. Ed è in una clinica psichiatrica. Ci finisce per problemi vari, violenza domestica, eccetera, è una vita veramente difficile, alcolismo, depressione, insomma, un elenco piuttosto lungo, e si ritrova in questo mondo della clinica psichiatrica, dove incontra tantissime persone. E la cosa più bella nella clinica psichiatrica, dove io ci sono stata... Ecco, questo è il punto, sennò sì, sembra che raccontiamo favole. Stata. No, assolutamente. È che subito ci si presenta con la diagnosi specifica o con le varie diagnosi e più o meno anche la terapia, insomma, si parla molto di farmaci. Fammi un esempio, presentati te sotto diagnosi e sotto terapia, se puoi, se ti va. Devo dire che io sono in remissione farmacologica e tutto, ma fa lo stesso. Allora, sono Caterina Cavina, borderline, alcolista in trattamento, prendo, 50 mg di Zoloft, basta. Ecco, questo, diciamo, questa è la tua, è il tuo biglietto da visita. Noi ci fermiamo un'istante, riprendiamo esattamente da questo biglietto da visita. A tra poco. Melog 800240024. Oggi parliamo del disagio mentale in senso più ampio, non è una trasmissione clinica. Ci rendiamo conto, almeno questa è la mia osservazione di base, che di disagio mentale non si parla volentieri. Se ne parla quando si attribuisce a uno stato d'animo, a un modo di comportarsi, in cui alcuni sintomi che potrebbero essere di un disagio mentale in realtà diventano dei sintomi socialmente rilevanti, quindi quello non gli si può dire niente che si arrabbia subito, c'è un problema, quell'altro è sempre triste, parla sempre di sfiga, c'è un problema, quell'altro è umorale, c'è un problema, e poi cominciano le diagnosi fatte in casa, fai da te, e si attribuiscono comunque questa o quell'altra patologia, l'hai giucchiata o ascoltata o letta da qualche parte. Però chi veramente ha problemi profondi legati al proprio disagio mentale evita di parlarne, e soprattutto si evita di parlarne quando queste persone gravitano nel nostro ambito degli affetti, ambito personale. Insomma, c'è ancora un grande pregiudizio, una grande paura, come se il disagio mentale fosse legato quasi, non so, a una possessione diabolica, a una maledizione che colpisce la stirpe. Angela, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. 72 anni e credo da circa 30 di assumere la cosiddetta pastiglietta. Vabbè, gli avrà prescritto un medico, penso. Beh, certo, sì, sicuramente lo specialista, perché è afferrata da stati d'ansia abbastanza continui. Beh, lei almeno ha dato un nome al disagio, non è che comincia a dire sto in ansia perché gli uomini non mi amano, sto in ansia perché i figli non mi telefonano. L'ansia era un problema che bisognava curarle e andare dal medico. Era un problema e io volevo risolvere questo problema perché non lo sentivo mio, perché quando sto bene, e adesso io sto bene, sono una persona molto serena, decisa, disposta al fare, e quindi non sono disposta a sentirmi soffocare dall'ansia e a un certo punto dall'angoscia, cosa che accaduto, ecco, punto detto, come lo viveva nel rapporto con gli altri? Perché quando il problema è forte, altera in qualche maniera la nostra relazione con il resto del mondo, e a quel punto comincia una serie di giustificazioni, o bisogna giustificarsi in qualche maniera. Se è così o non ci si giustifica e si fa di necessità virtù, il sintomo del proprio disagio diventa parte del nostro carattere, della nostra costante nel comportarci con gli altri. Ecco, prima di trovare, diciamo, una soluzione di tipo clinico, come mascherava o gestiva questa sua differenza? Allora, io mi sentivo, credevo di essere un incapace, però percepivo che io avevo delle potenzialità e delle capacità, e allora mi buttavo nel lavoro fino allo sfinimento, facendo, io sono stata insegnante 42 anni, con uno splendido rapporto con i ragazzi che io non ho mai voluto in qualche modo che si alterasse, però quando chiaramente ero afferrata dall'ansia o dall'angoscia non capivo più, e mi buttavo letteralmente, ho fatto di tutto all'interno della scuola a livello di funzione strumentale, vicepreside, che ne so. Però con una fatica immensa, immagino. Con una fatica immensa, proprio così, con una fatica che mi schiantava e che io alla fine non accettavo e non volevo accettare, aumentando di conseguenza il mio lavoro, le mie relazioni con gli altri, facendo apparire un volto che non era mio, e quando appariva mi dicevano ma no, non sei tu, non sei, ma che cos'hai, non, non sei questa donna che sì, le solite cose che ci senti rimaste stanco, prenditi una pausa, fatti una vacanza, fatti un viaggio, fai a me mi sento dire spesso, fai qualcosa per te. Io per me non so cosa devo fare, fai qualcosa per te. Tamara, buongiorno. Buongiorno, allora io sono, diciamo, l'Aldamerini di Noi Astri. Sì. Perché soffro di un disturbo bipolare che mi è stato diagnosticato più o meno a 21 anni e a quell'età chiaramente non si è pienamente consapevoli di cosa effettivamente stia accadendo, della patologia, magari si pensa solo a un episodio temporaneo e credo che anche la mancanza del supporto di familiari informati sull'argomento possa incidere alla non consapevolezza. La famiglia come reagisce di fronte a un figlio, a un parente che ha un disagio psichico? Si tende a, diciamo, attenuare la realtà, a dire ma sei tu che sei così, è colpa tua, oppure? Sì, molto spesso sì, si tenta prima questo e dal momento che poi magari acquistano consapevolezza magari si cerca di evitare, perché sono carichi di stereotipi, pregiudizi, di una cosa che andava nascosta, ma penso che questo dipenda anche poi dalla cultura, dalla preparazione. Cioè lei si è sentita, Tamara, la figlia matta che forse è meglio nascondere? Nascondere non tanto, perché comunque sono stata sempre eccentrica, sempre una persona al di fuori delle righe. Questo poi comporta, no, quando si scopre che effettivamente c'è qualcosa, un disturbo, qualcosa che non va, e dire dove inizia veramente Tamara, dove finisce, dove inizia la patologia, dove inizia l'individuo, qual è chi sono? Ecco, appunto, sono la patologia o sono la persona? Benissimo, ferma lì Tamara, molto chiaro. Catrina Cavina, ecco, da quello che dice Tamara rientriamo immediatamente a te, che ti sei definita attraverso il nome, una diagnosi e un farmaco. Ecco, certo. Racconta di questo tuo, perché nel libro ne parli in maniera romanzata con una ragazza, certo, che è l'antitesi tua, che sei tosta e nera. Pallida. Non sei albina però, diciamo. No. Ecco, tutt'altro. Ecco, dimmi esattamente, una volta entrata e declamata la patologia, sì, e il farmaco, cosa succede? Allora, io vorrei dire una cosa prima rispetto alla domanda che avevi fatto, ci tengo molto, perché non si parla in maniera chiara, cioè non si dice io sono così e prendo questo, perché innanzitutto, vabbè, le diagnosi sono comunque delle etichette a prescindere e gli stessi dottori, specialisti te lo dicono, tu non sai la tua diagnosi, però è un orientamento e questo è tutto un altro discorso, però non si parla perché? Perché la malattia mentale è molto vicina a noi, è dentro di noi, è in fieri e in ognuno di noi. E noi abbiamo paura. Quando vediamo un malato, in realtà noi vediamo noi stessi. Per quello allontaniamo, abbiamo bisogno di etichette, non ne vogliamo parlare, ce ne vergogniamo. Quando in famiglia sentiamo che è il nostro stesso sistema, siamo noi a essere fragili, tutta una famiglia in genere malata. Chi va in clinica è solo il sintomo. Però in genere quasi tutta la famiglia l'esito estremo di una patologia familiare. Esatto, familiare. E comunque, quando tu ti presenti in queste cliniche, in realtà, quello che volevo dire, arrivi in questi posti in un momento molto acuto. Anche perché, Caterina, adesso è una cosa bruttissima, quando l'ho detta io, per ciò che riguarda l'autismo, mi sono preso gli strali mezzo mondo. Ma una parte di trasmissione comunque ereditaria di certi disagi c'è, certo, comunque. Certo, non ci prendiamo ovviamente in giro, chiaro. No, io posso dire che ho la famosa tara familiare, ma ecco, assolutamente si dice così, riconoscibile alla vecchia, come si dice, la tara familiare. C'è una tara alla famiglia, il sangue è malato. Il sangue è malato, maledetto. Però quello che voglio dire è che comunque quando entri in questi posti e quando tu capisci, ti riconosci un disagio, in realtà è veramente, hai già fatto metà, quasi tutta la cura, perché tutti i casi di malattia mentale, secondo me, a parte alcuni veramente gravi, l'essere presenti a se stessi è il primo passo, poi c'è tutto il resto. Quindi la diagnosi sì, c'è, però tu sei altre mille cose. E capisco il discorso che ha fatto la signora sul bipolarismo, perché per un periodo ero sospetta io, per esempio, di bipolarismo, una lieve ciclotimia, una malattia molto di moda adesso, come dicevi tu, nei social. Sì, adesso invece dice... che dirti stronzo dicono ciclotimico, sì, capita anche a me. Ciclotimico, oppure dice le donne, sai, i nostri cambiamenti d'umore, ah, le donne son un po' bipolari, in realtà no, sono donne. Beh, una volta si già c'era il ciclo, è che adesso forse ciclo, meglio. Esatto, per la ciclotimico, ciclo mentrale. C'è il ciclo. È stato lì il passaggio. E no, ti voglio dire che è vero, è una domanda che ti poni sempre. Dove inizio io, dove inizia la malattia? In realtà sei tutte e due. Cioè, perché vedere la malattia come altro da te? Io sono io che in un certo contesto, con una certa anche situazione biochimica del mio cervello, perché dei bipolari succede qualcosa, ai depressi succede qualcosa, io sono, mi comporto in quel modo lì. Ecco, perché il problema, vero, problema vero è dare sempre, il primo che ha chiamato infatti andava da uno psicoterapeuta, diceva devi dare colpa agli altri, sono quelli che ti ma dicono no. Io sono figo, sono strafigo, voi siete una massa di stronzi, e ma voi no. Li staggono su. Cioè, ma il problema è biochimico. Sì, ma... è il problema che c'è qualcosa nel cervello che magari funziona diversamente e quindi bisogna intervenire esatto. Su quello. Esatto, ma la malattia mentale, che noi chiamiamo così, in realtà è un movimento, un'occasione di grande verità verso noi stessi e verso gli altri. È un momento veramente che se vissuto in modo, diciamo, costruttivo, da andare avanti, di crescita. Cioè dici, io mi sento così, io ho questa emozione, perché questo è anche un grande capitolo, il riconoscimento delle emozioni e non la loro negazione. Ma fermo un attimo, Caterina, no, perché non ti voglio interrompere un discorso pozzante. No, mi fermo solo un minuto, riprendo esattamente con te tra pochi secondi, sul fatto dell'emozione. Cioè noi dobbiamo riprocessare tutta la vita sociale, emotiva, che abbiamo vissuto prima dell'accettazione del fatto che nel nostro cervello qualcosa non gira proprio perfettamente. Ci fermiamo un istante. Melog 800240024, come promesso riprendo subito con Caterina Cavina, giornalista, scrittrice, autrice del romanzo Le radici dei fiori, edizione Pentagon, che uscirà da qui a qualche giorno in libreria, dove racconta attraverso un personaggio onirico, una ragazza internata in un luogo di cura psichiatrica, in realtà una sua esperienza, una sua storia. Ci eravamo fermati a un punto in cui collimando un po' la sua esperienza con quella dei tanti ascoltatori stanno chiamando, soprattutto ascoltatrici, devo dire oggi, è il momento dell'accettazione del fatto che esiste un problema proprio a livello biochimico in noi, per cui vediamo il mondo diversamente dagli altri, le nostre emozioni sono diverse, il nostro stato emotivo è incessante, pressante, è qualcosa che dobbiamo riconoscere anche per definire meglio la nostra esistenza e viverla nella maggior serenità possibile. Caterina. Sì, è molto importante questo, capire come si funziona senza pregiudizi verso se stessi e sensi di colpa. Perché il discorso del primo ascoltatore che ha chiamato, che ha detto dare la colpa agli altri, io non discuto la terapia, oppure insomma l'atteggiamento diciamo cognitivista, comportamentale, diamo la colpa agli altri. No, io discuto la parola colpa, è sbagliata, non esiste, non si guarisce nessuno col senso di colpa, negli altri e né noi stessi. Anche perché, scusa, quindi... Caterina, per assurdo, se anche gli altri ragionano alla stessa maniera, è un rimbalzarsi di una colpa che alla fine non si appiccica su nessuno. No, assolutamente. Guarda, secondo me è molto importante focalizzarsi, darsi tra virgolette le proprie colpe, diciamo le proprie responsabilità di cura, di volersi bene, eccetera, riconoscere i propri errori e vedere anche quelli degli altri e altri. Ma tu stavi male serena. Molto, Caterina, stavi male molto. Sì. Non me ne sono mai accorto che eri matta, scusa. No, vabbè, no, i miei amici sì, no, quasi tutti. Sì, io sono stata molto male, ma la mia è stata soprattutto una malattia antichissima. Adesso ti potrei raccontare una storia assurda di violenza, dall'infanzia, abusi, bla bla bla, una roba da telefono azzurro. Potrei farti tutta la biografia, l'autobiografia. Ma non è quello, cioè nel senso che in queste cliniche ci si fanno nei gruppi, ci sono dei gruppi di autoaiuto, diciamo, dove escono queste storie, il proprio vissuto biografico, che è importante riconoscerla, ma tu sei comunque altro. Cioè il passo. Sentire le storie degli altri quanto ti ha aiutato? Cioè hai trovato elementi comuni? C'è un elemento comune? Da una parte parte mi ha aiutato, dall'altro ti viene anche una bisogno di dire no vabbè ma come sei messo male, c'è anche una sorta di stacco. Ci, ti conforta non essere diciamo all'ultimo anello della catena della sfiga, eh? Sì, ma esatto, ma perché senti storie sfigatissime, cioè ok, ma anche ma lì nelle cliniche incontri da ragazzo che si è già fatto a 30 anni, si è già fatto 10 anni di carcere per dire, perché ne ha combinate di ogni, con storie assurde, alla persona depressa perché purtroppo ha perso un figlio. Cioè, incontri di tutta l'umanità varia, nei vari momenti di debolezza. Ecco, ma che no, trovi che sia giusto che, proprio che siano accomunate tutte queste persone? Perché sono storie diverse, filoni diversi, esatto, disagi diversi. Cosa c'entra una depressione perché ti muore un figlio, ti finisce il mondo, con una persona che magari si faceva, un altro che ha avuto una vita borderline? Perché nelle cliniche ci vanno le persone in momenti acuti, questi sono ricoveri di un mese, massimo due. Poi ci sono le strutture terapeutiche, non so, le comunità e altre cose specializzate per il tuo disagio, diciamo così. Però in queste cliniche incontri l'universo mondo, ma anche dallo schizofrenico catatonico che non capisce niente, parla versi, alla signora depressa che fa la lana, cioè fa le, I maglioni per i nipotini quando le vengono a trovare, alla tossica che faceva rapine armate, molti giovani ho conosciuto, molti giovani, quasi tutti con doppia diagnosi, cioè dipendenza, diagnosi psichiatrica, cioè, quindi incontro l'universo mondo. Quindi ci sono ancora dei ricettacoli in cui diciamo sì, la società ogni tanto screma le persone che nel comportamento, nel modo di pensare o anche diciamo nelle fasi acute, sì, nel loro profondo disagio, non sono in regola con il cervello rispetto agli altri. Ma io credo che ci sono semplicemente delle situazioni in cui tu smetti di essere, tra virgolette, un termine orrendo, ma secondo me esatto, funzionale a te stesso e alla vita in comunità, no? Il fatto che tu non è che ti devi omologare, devi diventare come gli altri. Molta gente vede nei farmaci, nello psicofarmaco, una negazione della propria unicità, soprattutto i bipolari, perché dicono cavolo, io prendo uno stabilizzatore dell'umore, mi toglie la fase up, la mia fase creativa eccentrica, come diceva l'ascoltatrice, e allora mi omologo. Non è vero, diventi semplicemente meno autolesionista e più capace di fare cose in maniera finalizzata. Adesso uso dei termini veramente meccanicisti, però sono così, cioè è semplicemente non negare se stessi, la propria unicità, anzi accettarla ed esaltarla, ma in maniera funzionale a te stesso, a te. E diciamo un modo per essere felici, usiamo questo termine che non va neanche di moda. Si può essere felici anche da malati, anche da matti, anche da bipolari, anche da depressi. Sentiamo un attimo Laura, un'ascoltatrice. Laura, buongiorno. Pronto? L'ascolto. Pronto? Sì, l'ascolto. Oh, non la sentivo, mi scusi, ma sono in autostrada. Allora, dopo l'intervista della scrittrice, fatica a parlare perché ha detto delle verità. La prima è sicuramente di riconoscere la propria patologia. Mi viene comunque da pensare che oggi la genetica purtroppo ci comanda e dobbiamo dargliene atto, ed è terribile. Però ci sono delle eccellenze mediche. Terribile, capiamo delle cose in più di noi, secondo me, alla fine. Certo, certo, meravigliose. E quindi bisogna avere il coraggio di andarci. Solo che riconoscere di avere dei bisogni e delle necessità significa anche essere oltre il 50% della cura. Quello che vorrei segnalare, che strada facendo da quando aspetto di poterci parlare con lei mi è venuto in mente, è che molte volte si va da un ottimo neurologo, un neuropsichiatra, che dir si voglia, però difficilmente dicono guardi che io questi caratteri di questo ragazzo li trovo magari nel babbo, perché ci sono dei problemi genetici, perché se non si va ad intervenire sul ceppo familiare, sì, cioè, questo ragazzo sì, si lei abbandona. Se parla ragazzi, sì, può essere anche che a un certo punto ognuno poi diventa responsabile della propria vita, continuare a guardarsi dietro le spalle serve veramente a poco, però è giusto riconoscere che in fondo siamo l'esito di altre persone, e anche in questo. Grazie Caterina Cavina, grazie a tutti.